voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Borders sent. Pieces are moving. We come to it at last. The great battle of our time. Fly High, Brave Dreamers, è il titolo dell'album che ha aperto la quarta e ultima parte di Eclettica anche in questa 18ª settimana della stagione. Ve la ricordo, è la numero 13. Chris and Carla, ovvero sia ex Walkabouts da Lubiana, dove in pratica si sono trasferiti, un nuovo album che ci siamo ascoltati con il pezzo At the Twilight's Last Gleaming, che esce per la Glitter House Records e che è stato anche pillola nella scorsa settimana. Ci trasferiamo poco più a nord rispetto a Lubiana, in quanto ci trasferiamo a Vienna, città da cui proviene colui che è stato definito il Frank Sinatra della techno. È alle soglie dei 60 anni, un elettro crooner viennese, come è stato definito, che incide per la Klein Records. Lui si chiama Louis Austin e il suo ultimo album ha per titolo Iguana. Noi ci ascoltiamo Disco Dancer. When I was a kid, I picked the guitar. Then I got older, I played in a bar. After a while, I played with a band. Then we were touring all over the land, country and western and boogie and rock, and then heavy metal. It was such a shock. The money was lousy, the whiskey was cheap, backstage was filthy, the manager a creep. From city to city, together in a bus, smoking and drinking, fighting over fuss. I had enough, and I've got the chance. All I ever want is to dance, to dance. Magari potreste pensare, ma perché Giulio continua a leggere la sequenza, l'incipit seriale di Paolo Nori. Vabbè che l'aveva citato per il brano dei Giardini di Miro, ma non è che la cosa poi sia così rilevante. E non avreste tutti torti, perché non è solo per aver citato quei fatti, essere stato colpito da quella copertina, che sono andato a leggere per tutte le parti di Eclettica, tranne quella di oggi, l'inizio del libro di Paolo Nori. Ma perché settimana scorsa, come mi è stato fatto notare da più parti, si celebrava il giorno della memoria e quindi anche l'uscita in quei giorni del disco dei Giardini di Miro rispetto al giorno della memoria sicuramente aveva un suo nesso. Io un po' dispiaciuto di non essermene ricordato per tempo di quel giorno della memoria, allora ho cercato di recuperare in questo modo, recuperando dei fatti della storia passata del 1960 dell'Italia, ma anche andando a recuperare una poesia che possiamo considerare come simbolo della memoria. Spero di non rovinarla troppo nel leggervela. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando la sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce la pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri cari torcano il viso da voi. Questa era la poesia «Se questo è un uomo» di Primo Levi. Oh. Ve li ricordate? Li avevamo già ascoltati qualche mese fa, però con un brano estratto in quel caso da quella che era una compilation, un progetto, Cadaveri a passeggio, che li vedeva assieme ad altri gruppi del milanese. Invece nel frattempo per essere più preciso, è arrivato il loro album dal titolo Cinema, grazie alla Goodfellas. Sto parlando dei Vintage Violence, che ci siamo ascoltati con Quanto fa male pugnalarsi in gola, e prima invece ci eravamo ascoltati dall'ultimo dei Ronin Lemming, il brano I pescatori non sono tornati. Siamo ascoltati più volte la lunghissima, all'inizio sì intima come questa, ma poi assolutamente diversa, versione di In the End dal film Short Bus con la voce di Justin Bond. Vi avevo promesso in quelle occasioni che ci saremmo ascoltati anche la versione acustica, scarna, probabilmente anche la versione originale, visto che lui ne è l'autore, Scott Matthew, di quel brano. E quel momento è arrivato quest'oggi, in chiusura della quarta parte di Eclettica, che cade di venerdì per quanto riguarda la sua prima trasmissione. Potete ascoltare quando volete o grazie alle repliche, ma soprattutto grazie al podcasting. Alla prossima!